Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Ascolto Radio 24 la mattina e sento Milan, Alino Milan. Ma fa venire l'ulata lì chi chiude sto cazzo di Alino Milan. Io sono ancora qua. Quello che abbiamo sempre detto è: noi dobbiamo essere meglio degli altri, ma non si può farlo a parole, non è uno slogan dire ma noi siamo un movimento e gli altri sono il PD. È uno slogan, perché, caro Di Maio, forse dovresti guardare che regole scritte non ce ne sono e ve le state inventando alla giornata. Ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa? Avevamo un avviso di garanzia nascosto per 3 mesi e per questa ragione noi abbiamo applicato una regola, in quanto questo è il Movimento 5 Stelle, non è il Partito Democratico. Più o meno su per giù, più giù, più su, più giù, più su. Se un sindaco, tu sei il responsabile dei comuni. Tu, anche se io posso essere la persona, come dire, con cui vai meno d'accordo in assoluto, tu rispondi al telefono o mi chiami per restare nei tuoi ruoli. La vita che va e non va, con quello che non si prende, con quello che non si dà. Che ci siano 3 pesi, perché non sono neanche più 2, 3 pesi e 3 misure è evidente. Noi invece vediamo che ogni giorno c'è una regola nuova che viene interpretata a seconda di chi sono le persone. Col cuore che batte più forte, la lotta da passare. Io sono ancora qua. Ragazzi, che psicodramma in salsa grillina è questo di Parma, Pizzarotti, il pizza. Io sono ancora qua. Litigano un pochettino, litigano un pochetto, come dire, a Parma. E vabbè. Io sono ancora qua. Se ho capito bene l'accusa, perché poi se perdi una puntata di queste telenovele poi è un casino ricostruire. Comunque l'accusa che hanno fatto a Pizzarotti, che è stato sospeso dal Movimento 5 Stelle, è di avere tenuto nascosto per 3 mesi di aver ricevuto un avviso di garanzia. Questa è la differenza, per esempio, col sindaco di Livorno Nogarin, che anche lui è indagato, però l'ha detto subito. E infatti Nogarino oggi al Corriere della Sera dice: mi spiace per il mio amico Pizzarotti. Amico no, amico non l'ha detto, per la verità. Mi spiace per lui, ma ha tenuto nascosto questa notizia. E Pizzarotti dice: io l'avevo detto, non mi rispondevano. Mamma mia, ragazzi. Ci vuole fantasia. E allora che si fa? David ci scrive: Milan, forza Rima! Riprenditi la vita. Immagino fosse forza Roma. Vabbè, Davide, ti è venuta male, ma va bene. Buongiorno da Napoli, ci scrive un ascoltatore. Se vi firmate, magari vi saluto. Anzi, devo fare un saluto, un salutino, come nelle radio anni 70. Devo salutare il signor Carlo e la signora Donatella. Il signor Carlo tassista e la signora Donatella. Tra l'altro, segnalati da Veronica Gentili, dice: mi ha portato questo tassista che ti ascolta, il signor Carlo. E va bene. Salah, posizione regolare, attenzione a tu per tutto, Donnarumma. Salah, stavolta non sbaglia, porta avanti la Roma dopo 19 minuti. Ho visto questa partita, grande il Sharawi. Ma quello è il Sharawi che 5 anni fa ho detto che è il miglior attaccante italiano degli ultimi 10 anni? Quello? È quello? È quello lì? È il faraone, quello lì? Quello che abbiamo cacciato per tenere Balotelli? È quello? È come Bacca, ma Bacca è quello che ha fatto 18 gol, che quello che cacceremo per tenere il Balotelli. Ah, è lui, è Bacca, 18 gol. Ha segnato anche stavolta in questo scempio. Chi è questo? Marione Adinolfi, buongiorno, sei pronto? Siamo una curva in festa, che bello. Sei pronto? Vi spacchiamo le ossa sabato. vi spacchiamo le ossa. 34 punti di stacco. Dai, quanti? 34. Non male. 34. Vabbè, 34 punti d'attacco, se ne sotto al Sassuolo, insomma, una stagione da ricordare. È una stagione in linea col mio obiettivo. Io avevo detto sesto, settimo posto a ottobre, siamo arrivati a ribasso, settimi, e quindi con una sufficienza stiracchiata. Bene, però sabato ci divertiamo a prendervi a pallonate, questa è una cosa interessante. Stai tranquillo, caro Mario Adinolfi, ti faccio anche un annuncio ufficiale: sabato sarò al Olimpico. Non ci credo. E come no? Mi stai sfidando. E come no? Rischi che vengo al sabato all'Olimpico. Sarò all'Olimpico. Vengo con lo striscione. All'Olimpico con mio figlio Mattia. Gli ho già raccontato la storia di Davide contro Golia. Gli ho detto bravo, riferimenti biblici. È importante. Non per quello. Lascia perdere. Perché sto cominciando a fargli capire che potrebbe andare proprio non benissimo, no? Gli ho detto, però ricordati Davide contro Golia. Ma guardato come si guarda un deficiente, ha detto, Davide contro Golia finisce bene dal vostro punto di vista. Esatto. E quindi sto cercando in tutti i modi. Non posso portare la decisione Milan Berta, quindi, perché sarebbe un po' antipatico. Poi c'è, peraltro, c'è anche qualche tifoso del Milan anche a Roma che potrebbe votarti. Quindi, mi votano. Di questo me l'hanno già detto. Milan Club. Santa Maria Maggiore vota per me. Vota per te, ma certo, come no? Dopo che lo striscione Milan merda, vota per te, sicuro. Era riferito a te, lo sapevo che non era una questione della squadra, capito? Ecco. Sempre molto educato e gentile. Grazie, ti voglio bene e non voglio. C'è Veronica Gentile. No, c'è Federico Novella. Ti piace circondarti dei Juventini? Sì, mi piace così. Comunque non si illudono i bambini così, portalo pure allo stadio tuo figlio, giustamente, ma non raccontargli parabole che poi. Cioè, poi la realtà, l'impatto con la realtà potrebbe essere troppo violento. Io lo sto preparando, passo passo ogni giorno di fronte a questa. Lo stai indottrinando. Le parole giuste queste, insomma. Gli sto dicendo che potrebbe andare come non vorremmo, come c'è una probabilità su un milione che il Milan perda, insomma. Però intanto il tuo obiettivo di stagionale è stato centrato. L'asticella te la sei messa sotto le suole delle scarpe, sì. Quindi era facile, sì. Però insomma. Se no, guarda, è una squadra da sesto settimo posto, l'ho detto e in effetti si è verificato. Allora dai, mi scrivono: perché scioccare un figlio? Dai, su, fate i bravi, andiamo ad aprire il Parlamento. Ci vediamo più tardi, grazie. Allora, abbiamo, come detto, Federico Novella, Mattino 5, e il nostro Mario Adinolfi, il popolo della famiglia. Ah, questa devo farla subito sentire, il popolo della famiglia. Devo subito far sentire due cose. Don Livio Fanzaga. L'inno, mamma mia. C'hai l'inno, vabbè, l'inno lo troviamo. È molto bello. Novella, buono che tra due ore sto da te, quindi attenzione. No, come tra due ore? Tra due ore da te? No, sto dalla Panicucci, mi pare. Sì, dall'altro versante, ma è sempre lo stesso programma. Ma certo, quindi sei a Milano? No, esiste anche il collegamento da Roma, sai, questi media c'è stato questi mezzi. Le nuove tecnologie ce lo consentono. Effettivamente sì, volevo subito coglierti in castagna. Ah beh, aspetta, ti farà la prima domanda, perché qui, ecco, se l'inno. A chi ci dice che tutto è libertà, urca, che per i figli Federico. No, vabbè, ma guarda che c'è adesso tutto. E parte il salmo responsoriale. No, ma guarda che gli inni dei partiti politici hanno un po' tutte questa cadenza un po' orrenda. Come dire? No, che orrenda, un po' vagamente religiosa, così, quindi in linea con gli altri partiti. Bravo Federico Novella, che è così. L'inno è di per sé religioso. Vabbè, persino l'inno di Mameli, scritto dal pastore Goffredo Mameli, contiene riferimenti a Dio, Vabbè. Tutti i partiti si credono investiti da una missione, diciamo, messianica. Eccolo. Anche il tuo, giustamente. Eccolo, soprattutto il suo. Esatto. Comunque, allora, caro Marione, tanto la prima domanda di Federica Panicucci, bruciamole questa cosa, questo scoop. Quanti chili hai perso? Perché qui devi chiarire, a noi hai detto una cosa, la zanzara ne ha detto un'altra. Cioè, quanti chili hai perso? È un oscillo, ragazzi, mica soffisto. fisso su una, su una posizione. Ne devi ma perdere 40. Debito, è un po' come il debito pubblico. È un po' come il debito pubblico. Quello italiano. Vabbè, quanti ne hai persi dall'inizio? Ho uscito tra 8 e 11. Oggi non ho ancora diciamo misurato la mia posizione quotidiana. Tra 8 e 11. Secondo dei... Però adesso c'è lo sprint finale in cui ho deciso che darò il massimo anche su questo. Ma non, non ce la facciamo a perdere 40 kg? Beh, da 11 mancano 29, mancano 21 giorni. Appunto, hai perso un po', era un chilo al giorno, hai perso l'abbrivio. Sono lievemente sotto media, ma non pesantemente sotto media. Vediamo alla fine. Comunque, ecco. Perché poi se ne perdo 30, fammi capire, l'applauso lo provo fare lo stesso. No, cioè, 30 va benissimo, per me. Ma Milan, gli obiettivi sono raggiungibili solo quando parla di Milan, poi sugli altri è pretenziosissimo. Cioè. No, puoi fare, se perdi 30 kg, esatto. Se perdi 30 kg la Coppa Italia, io sono contento così. Io no. Ti facciamo la Coppa Italia, le porta a bagnare la porchetta, così insomma. Ti facciamo l'applauso. No, vabbè, dai, prima di sentire Don Livio Fanzaga, io voglio parlare, attenzione cari ascoltatori, il tema del giorno sarà questo, il tema della polemica, io non capisco più l'Italia. Sarà giusto votare su due giorni, come decideranno oggi, anche il lunedì. Due giorni invece che uno per evitare la dispersione, il fatto che la gente non vada più a votare. Marino Adinolfi, tu sei contento? Non mi piace molto l'idea che le regole si cambino in corsa, però non mi sembra irragionevole. Di solito le regole però non si cambiano a 10 giorni alle elezioni, però vabbè, detto questo era ragionevole. Cosa cambia? Cioè, cos'è? Sostanzialmente le cose cambiano, cosa cambia? Sai che le cose cambiano, Mina, tu non segui la politica, non la capisci, è una tua difficoltà, perché non sei a Milano, però la politica ha delle sue sfumature, dove avere un'affluenza di un certo tipo o di un altro tipo può modificare i risultati. Posso fare un'interpretazione? Qualcuno dica che questa volta sia stata fatta pensando al referendum, perché si voterà anche là in due giorni. Pensa che la massima affluenza al referendum favorisce il suo. Pensa, ci sto arrivando anch'io, ci sto arrivando anch'io, grazie di noi. Federico, qual è la tua interpretazione? Facendo 2+2, diciamo che il risultato sembra essere questo, cioè tu consenti di votare per due giorni e crei un precedente che poi a breve si ripeterà in un altro appuntamento in cui diciamo il governo premia che ci sia un'importante affluenza, che ci sia il tempo necessario per far sì che tutti vadano a votare e particolarmente insomma di solito quando uno va a votare vota sì, parliamo del referendum campale. Beh, in questo caso non è un referendum abrogativo, quindi è confermativo, per cui spero che tutti i cittadini a ottobre si informino e però se tu vuoi che un referendum passi, se hai più tempo a disposizione hai più possibilità. In linea di principio. Più che altro il voto su un giorno solo è un voto tendenzialmente molto militante. Il voto molto militante appartiene alle schiere diciamo un po' più politicizzate, che rispetto al referendum hanno una chiave di lettura molto spesso negativa, diciamo. Se vuoi il voto dell'opinione della massa, su cui puoi incidere avendo in mano la leva della RAI, è meglio che tu abbia più tempo, se più gente fa. Va bene, Marione c'è solo da imparare. Da Marione, ecco, uno che la politica l'ha masticata. Sentite qua invece, però le abbiamo beccate. Dov'è il popolo della famiglia? Ce l'abbiamo il popolo della famiglia di Varese? Varese, li conosce questi di Varese? I candidati del popolo della famiglia di Varese. Attenzione, caro Federico Novella, questi sai cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto? Per prepararsi al voto, che dici, fai un comizio, che dici vai porta a porta, non nel senso da Vespa, no, vai a farti conoscere, fai i banchetti, fai che faresti tu per farti conoscere un po' le liste, Federico? Non so, un banchetto? Sì, probabilmente sì, il mercato. Il mercato. No, esatto, porta a porta, piuttosto porta. Andrei porta a porta, non parlo di Bruno Vespa, porta a porta. E invece questi signori sono andati in pellegrinaggio al Sacro Monte. La fede porta a zero, è finita. Ecco. O sei con Gesù, o sei con me, o contro di me. La Madonna che scende in politica attraverso di noi. Se l'unico criterio per definire la famiglia è il sentimento, allora anche il rapporto tra un uomo e un cane sentimentale, perché non è una famiglia. Quando dicono, cioè, la Madonna che scende in politica attraverso di noi, ho capito bene, Marione Adinolfi, sei sicuro? Io voglio capire se c'è sta cosa drammatica, se tra le tante iniziative, come dire, dei banchetti, non si può andare a fare il pellegrinaggio. Ma sì, certo, ma certo, non che si può andare a fare il pellegrinaggio, ma allora, si può fare tutto, ma si può fare tutto. Io oggi alle ore 17:30 sono alla Basilica di Santa Maria Maggiore per fare la consacrazione del popolo e della famiglia al cuore immacolato di Maria. Sghignazziamo. Ma no, mi ha colpito la frase, la Madonna che scende in politica attraverso di noi. Io vado a fare la consacrazione al Sacro Cuore di Maria. Ma è ovvio, io ci credo. Cioè, io credo che tutto questo lo faccio perché ho una ispirazione forte e mi faccio referente di questo tipo di ispirazione verso. Ma ho capito, ma Marione, ma adesso per noi. Marione, il video c'è gente che sale su verso il Sacro Monte Granando. No, ma uno può andare, può andare dove vuole. È legittima, diciamo che sentirti sponsorizzati dalla Madonna. Ma capisci? Ma dai, Marione, ma noi ti abbiamo conosciuto. Ispirati dalla Madonna. Ma sentire la Madonna scende in politica attraverso di noi. Se non avessimo questa ispirazione sarebbe folle fare quello che facciamo. Come fare a non comprendere questo? Ma vi pare che ci mettevamo contro queste cavoli macchine clamorose con una macchinetta microbica? Se non avessimo questa spinta fortissima, che altro tipo di interesse possiamo avere? Oh, cioè, proprio se così, quello di così rispondere a una chiamata. Noi sentiamo gente che sta rispondendo. Ma la chiamata di chi? La chiamata di chi? Ma certo, ma di chi? Del Signore, ma del nostro Signore Gesù Cristo. Mi spiace se vi dà tanto fastidio questa cosa. Non è che ci dà fastidio. A me non dà fastidio. A me fa effetto, esatto. Fa un po' effetto. Ma a me non dà fastidio. Pensavamo che comunque le istituzioni celesti fossero apolitiche. Invece questo oggi pensavo. Scopriamo che c'è una sorta di endorsement della Madonna per questi signori. Ma scoprire che c'è endorsement, ovviamente, questo insomma, se andate con un microfono o di una frase di una certa maniera, di un'altra, non sono tutti cultori della politica in maniera perfetta. Io ti posso dire, sono, diciamo così, il presidente nazionale del popolo e della famiglia, ti posso dire che il nostro popolo si muove fortemente ispirato e motivato da queste ragioni e che fa iniziative, ripeto, oggi a Santa Maria Maggiore 17:30, con quella di Varese che avete filmato, perché si sente mosso da questo tipo di forza. Se non ci fosse come, questo, è come, una guerra santa, è un po', esatto, un po', santa. Beh, un po' sì, un po' sì. Elettorale, noi siamo motivati da questo. Vabbè, però c'è adesso chi è motivato da Marco Pannella, c'è chi è motivato da Matteo Renzi, c'è chi è motivato dalla poltrona, c'è chi è motivato però conti, scusa Mario, ti faccio questa domanda, no, ti faccio questa domanda molto seria, ma non rischiate, come dire, anche da parte del mondo cattolico, dire ma perché vi sentite voi investiti depositari di questa verità? Depositari, noi siamo ispirati da qui, poi se altri ti sentono altrettanto ispirati da qui, siamo solo felici. Noi però lo proclamiamo con grande nettezza, grande chiarezza. Questo è quello che spinge il popolo e la famiglia a essere presente, a fare uno sforzo veramente di Davide contro Golia, una competizione elettorale dove mi darai atto. Però scusami, abbiamo Mario, interesse però, o abbiamo condizioni per cui questa Mario cosa sia una cosa facile. Aspetta che il novella ti fa una domanda. Il novella. No, ma Mario, te lo dico con tutta la curiosità, assolutamente senza giudicare, però dietro questa ispirazione c'è un senso di superiorità rispetto a tutti gli altri. Ma figuriamoci, noi ci chiamiamo fra di noi lampadine fulminate. Noi speriamo che attraverso persino le lampadine fulminanti che siamo, Dio possa riuscire a mandare un po' di luce dentro a questo buio terrificante che viviamo in questa fase italiana. Questo è quello, ma noi non abbiamo nessun senso di superiorità ed è evidentissimo da chiunque parli del popolo e della famiglia, perché proprio non è insito in noi. Veniamo talmente deriti. Quanto è figo il popolo e la famiglia. Cioè, sono due mesi che andiamo avanti prendendoci le pietrate. Ma no, ma capisci? Tanta trasmissione. Ma adesso che ci abbiamo il ma Marione, ma tu lo sai. Ma io, io ti rispetto da due anni, ti invito, eccetera. Però sentire la Madonna attraverso di noi scende in politica mi colpisce. Ma che devo fare? Cioè, voglio dire, penso che lo Stato sia laico e quindi mi colpisce. Ma la cosa tremenda è che voi pensate che lo Stato sia laico, ma lo Stato non è ateo. Ma non ho detto ateo, ho capito, la Madonna che scende in politica, cioè, scusa, si è criticato per anni la Democrazia Cristiana perché i preti attraverso l'omelia dicevano votate Democrazia Cristiana. Che c'era di male? Figurarsi adesso sentire dire la Madonna attraverso di noi scende in politica, cioè, capisci che è un passo, sembra quasi un passo ulteriore, no? Comunque devo andare al traffico, poi rientriamo, eh. Omina, e sono fiorentino, questi qui di Radio 24 sono fissati sul traffico. Domandate una volta sì e una volta sì. E con le donne prete finalmente possiamo dare un senso a quella carta del mercante in fiera che si chiama la papessa. Ciao Alessandro, sono quello dell'argomento povero. Volevo solamente dire che tu sei lì seduto davanti al tuo microfono e ogni mese sulle 24 ore ti fa il tuo bel bonifico. Allora vieni con me a fare l'artigiano, a combattere tutti i giorni con un fisco che ti strozza, a combattere tutti i giorni con la gente che non ti paga, a combattere tutti i giorni per portare a casa un po' di lavoro. E allora vedrai che l'argomento povero non lo è più. Io da gay sono contro le unioni eterosessuali. Oh Alino, ma se Adinolfi mangia un chilo di pasta vuol dire che mangia come 10 persone, ma se lo eleggono sindaco di Roma bisogna pagare i 10 stipendi. Ah, vabbè, questa devo dire banalotta. No, l'argomento povero, l'ascoltatore, e sono quelli che dicono: ma perché hanno fatto le unioni civili quando c'è la crisi e altre priorità? Ma dico argomento povero, lo ribadisco, caro ascoltatore, so benissimo cosa vuol dire combattere gli artigiani, non prendono i soldi, non ti pagano le fatture, i fornitori. Ma è che non è che se uno fa le unioni civili non fa nient'altro nel frattempo, se uno vuole, se uno governo vuole, può fare anche 10. Diciamo che la definizione che è un argomento povero che non è, sì, che non è felice, insomma, no? Però le unioni civili c'è il buon Marione che c'è. Diciamo che l'intensità che hanno messo nel realizzare le unioni civili potevano metterla su qualcosa, ecco, che per il paese era un po' più rilevante. Eccolo lì. Vabbè, allora, no, Federico, sei rimasto sorpreso, sì, un po' da Marione, però in realtà forse ci ha detto delle cose che noi avevamo sottovalutato, ma lui dall'inizio, diciamo, il popolo della famiglia si muove sotto queste ali. Sì, ma poi, guarda, devo dire, è comunque una cosa che incuriosisce, cioè è un tipo di passione che questa che sentiamo nelle sue file, nei suoi sostenitori, che per certi versi fa anche piacere, perché è anche comunque una passione politica sì, e religiosa, sì, insieme, sì, quindi è un fenomeno. E non è gente che fa del male, amici miei, cioè è gente del male, ci ha fatto pellegrinaggio a volte. Vabbè, ma adesso il male, in teoria... Non è che prende e fa male alle persone, cioè fa un pellegrinaggio al mondo, a Roma ci sono stati banchetti speciali. Ho capito, però, Mario... Hanno gente di un colore, dell'altro, allora, sono stati anche i da sfasciare, ha sfasciato... le cose di Casa Pound, cioè, però scusa Mario, il male non è il pellegrinaggio. Il pellegrinaggio uno è libero di fare quello che vuole, il pellegrinaggio lo può fare. Per alcuni non è bene, diciamo, non è bene che uno vada in politica dicendo porta avanti il disegno della Madonna. Per alcuni non lo è bene. Quella è una frase che io non avrei detto, allora se dobbiamo essere chiari, quella frase lì io non l'avrei detta, però detto questo, è ovvio se tu metti il microfono sotto la ricerca della frase colorata, stai bene, facciamo questo mestiere, che può uscire una frase come quella. Io non direi e non dico che la Madonna attraverso di noi scende in politica. Noi evidentemente, e l'ha detto quella persona sorridendo, facendo una battuta evidentemente, sì, ma dopo quella frase ovviamente verrà utilizzata, verrà strumentalizzata, ma è un dato di fatto che c'è un popolo religiosamente ispirato, piccolo, perché non è che vinceremo le elezioni in tutte le città, che ritiene su queste cose di fare la sua mobilitazione pacifica, senza rompere scatole a nessuno, facendo però per Mario, questa cosa tremenda, la differenza con i cattolici che hanno fatto politica da sempre, esatto, in cioè che differenza c'è? Che scatto in la più differenza c'è? È che voi siete un pochino fondamentalisti. La differenza è che i cattolici che fino ad oggi hanno fatto politica in questo momento in Italia sono totalmente irrilevanti e hanno negoziato e mercanteggiato, per esempio, sui giorni civili, che sono state votate dalla stragrande maggioranza dei parlamentari cattolici di questo paese. Allora, per quelli come noi che si sono battuti in maniera, penso si sarà capita, minoritaria contro le unioni civili, pur avendo alle spalle un popolo fortissimo, abbiamo fatto due Family Day, abbiamo riempito San Giovanni e il Circo Massimo, esserci sentiti ignorati e calpestati, neanche ricevuti mezza volta dal Presidente del Consiglio per sentire le nostre ragioni, evidentemente avrà provocato quel milione di persone che era la circomazione di San Giovanni la volontà di, insomma, far contare un po' il nostro punto di vista. Insomma, diciamo, poi vedremo Leone. Tu, Federico, di che parli oggi? Oggi parlo di sicurezza. Parlo di sicurezza. Sì, partendo da quella brutta storia successa a Roma di una ragazza che è stata, insomma, abusata all'interno di un campo rom e c'è stata una mobilitazione importante a Roma per questa ragazza. Sì. Allora, io ho due minuti. Io una cosa devo dire. Secondo me ieri il Papa ha detto, anzi l'altro ieri ha detto delle frasi sante. Ho capito a cosa ti riferisci. Lo so, io l'ho messo su Facebook, anch'io ho sperimentato l'insulto alla Dinolfi. Le frasi sante sui gattini, sui cucciolini, sui cagnetti. La pietà non va confusa neppure con la compassione che proviamo per gli animali che vivono con noi. Accade infatti che a volte si provi questo sentimento verso gli animali e si rimanga indifferenti davanti alle sofferenze dei fratelli. Ma quante volte vediamo gente tanto attaccata ai gatti, ai cani, e poi lasciano senza aiutare la fame del vicino, la vicina. Bravo! Bravo, Papa! Capito, Adinolfi, bravo. Guarda, Papa! La pubblica Radio 24, il grande Papa Francesco, subito dopo la zanzara con gli animalisti e da fortissimo. Esatto. Vedo già Papa Francesco col salame in mano. Sì, col salame, a brandire il salame contro gli animalisti. Bravo, Papa, che non vuol dire, cari amici dei cani, dei gattini, anch'io sono amico del gattino, c'ho la mia gatta Zen a casa, non vuol dire avercela contro gli animali, anzi vuol dire amarli. Ma insomma, le sono bestioline. Se date una carezza o mettete il cappottino all'ultima moda al vostro cagnolino e poi incontrate un barbone e lo guardate con disprezzo, siete dei coglioni! Questa è la verità. Va bene? Vi devo salutare, Mara Dinolfi, Federico Novella, ciao. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. E allora, cari ascoltatori, eccoci qua, sono le 7:17 minuti e voi sonnecchiate, magari siete ancora a fare le vostre colazioni mentre la 159esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è già cominciata. E allora, siamo qui pronti a leggere i giornali con tante notizie, essendo lunedì come al solito i titoli dei giornali e le aperture dei quotidiani sono molto variegate e variopinte. Andiamo allora a sfogliarli. Oh, non sanno di che parlare i giornali, È lunedì 16 maggio e siamo qui. Allora, i titoli: Il Sole 24 Ore, ricchi e poveri d'Europa. Ecco la mappa dei redditi e il confronto tra i contribuenti italiani e quelli di Francia, Spagna, Germania, Olanda e Regno Unito. E scopriamo dunque sul Sole 24 Ore se siamo più ricchi, se siamo più poveri. Un bel confronto europeo, lo vedremo più avanti. Il Corriere della Sera apre sulla Libia a rischio. L'Italia rimanda l'invio di soldati. La Farnesina, cioè il Ministero degli Esteri, dice: puntiamo a stabilizzare il paese. Insomma, non andranno per il momento soldati italiani in Libia. Il Messaggero: statali, aumenti per i salari bassi. Le direttive del ministro Madia per il contratto, 300 milioni da distribuire tra chi guadagna meno. Per Repubblica invece il voto in due giornate anche al referendum. Letta dice: non ha senso, sapete che si voterà in due giornate amministrative e per molti è un precedente per mettere il voto su due giorni anche al referendum di ottobre, la vera partita politica secondo Renzi. La Stampa: dall'Unione Europea arriva uno sconto da 14 miliardi. La lettera di Bruxelles: sciogliete i nodi su IVA e deficit, arriverà in settimana. Per il giornale Terrorismo: siamo nel pallone, senza difese.